un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il calcio di oggi non è sostenibile, però ci sono ormai sotto gli occhi di tutti troppe situazioni oltre il limite, quindi è il momento di provare a fare qualche cosa di diverso. Io penso che questo gruppo di persone, questa idea che ci accomuna, è di provare a dare una città di nuovo la sensazione dello sport e non di questo calcio gridato di cui viviamo ormai da due decenni al minimo, tutti gli aspetti più positivi e negativi, sia l'unica strada percorribile. Noi saremo una squadra, saremo una società pulita, saremo una squadra, ho detto ieri a qualcuno, biologica, no? E questo è un termine che mi piace, perché sto convertendo la mia azienda agricola ad un sistema biologico. Noi saremo così, noi saremo trasparenti. Dove c'è Barilla c'è casa. Molto, molto Expo, molto ecosostenibile la proposta di Barilla e di Nevio Scala al Parma. Michele Previato qui con noi a Expo, siamo a Cibus Italia, veniteci a trovare, do delle indicazioni geografiche, anzi ciao Pardo. Oh, sono da. Dammi delle indicazioni geografiche di dove sei. Guarda, io sono a 3 km Baraglio, 3 km da? Da Aglio, che fa molto. Da Aglio. Aglio. Fa molto Expo, sì. Carli, la Bologna Firenze procede in colonnati, tra poco avremo anche il traffico, insomma, si procede, sì, in colonnati. No, ma adesso facciamo della viabilità e del meteo anche. Tu mi hai lasciato solo, però c'è Giovanni Capuano qui con me. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, ciao Pier. Non male anche la squadra biologica, eh? Non male anche la squadra biologica. Ecosostenibile, fa molto Expo. Dove siamo e dove saremo oggi, tutta la settimana sono stati qui, ancora oggi, domani e poi col professor Capuano anche domenica dalle 5 alle 7 di sera. Dunque, facciamo della viabilità, se ci volete venire a trovare, passate tra il padiglione del Giappone e quello di Monaco, dove non... dove non trovate Condogbia. Non troverete più Condogbia, ma comunque passate lì in mezzo e venite qui, ci venite a trovare. Vi regaliamo anche delle magliette di Radio 24. Faccio anche il meteo, 30.02 all'interno dello studio di Radio 24, circa 38 all'ombra fuori di qui. Comunque, allora, Parma ecosostenibile, questa è la proposta di Barilla. Vedremo se riusciremo a vedere il Parma iscritto alla prossima Serie B. Mi sembra un progetto molto ambizioso, molto, molto bello, molto ecosostenibile, ma anche molto difficile. Tu cosa dici, Pier? Difficile, sicuramente molto difficile. Hai detto tutto tu, insomma, è chiaro che il caso del Parma chiama possibile con ancora maggiore forza su dei valori che fanno parte o che dovrebbero fare tutti quelli che si occupano di calcio, e questo vale per tutti. Poi insomma sappiamo che proprio in questa radio alla Zanzara Ferrero ha detto quella cosa su Pulcinelli che sarà mal interpretata e chiesto scusa che il riferimento non era alla morte fisica del presidente. Già abbiamo dei problemi di ecosostenibilità del tuo telefono. Problemi di sostenibilità della linea telefonica. Sul Parma possiamo dire una cosa: io credo che il progetto della Serie B sia definitivamente tramontato e possiamo metterci una pietra sopra. Beh, ma guarda, si può ripartire. Nelle scorse settimane si era parlato di altro, si era parlato magari dell'ipotesi di un ripescaggio in Lega Pro, dove, sì, come abbiamo appreso nelle scorse ore, più di metà delle squadre non hanno presentato le fideiussioni. C'è chi ha fatto le fotocopie degli assegni e cose simili. Quindi, senti, ma c'è, posso chiederti una cosa? Ma tu da questo punto di vista, se per il riproviamoci, sistemiamo le cose, magari col tempo, o sei la Merkel che dice rami secchi, trac trac trac. Io credo che al Parma c'è cioè una squadra No, ma facciamo il caso del Parma. Al Parma farebbe bene ripartire dalla Serie D, da dove deve ripartire e ricostruirsi, io mi auguro poi in un tempo ragionevole un suo percorso in salita. Per questo ti dico, nelle scorse settimane si era parlato dell'esistenza di questa possibile nuova accordata per la Serie D, che poi è quella che si è palesata, e si era anche detto verranno a esserci dei buchi in Lega Pro, magari Tavecchio potrebbe fare sua sponte un decreto presidenziale per ripescare il Parma. Beh, io ti dico, mi risulta che questa non sia un'opzione sul tavolo, cioè il Parma dovrà farsi la sua trafila dalla Serie D e tornare, ci si augura, nell'arco di 3, 4, 5 stagioni in Serie A, e io credo sarà una bella lezione per tutti. E per quanto riguarda invece altre squadre con un sacco di problemi, no, che io credo che sarà una bella lezione per tutti, quella del Parma. Cioè sì, bisogna imparare che d'ora in poi è cosa, così. Cosa vogliamo fare con le squadre che non hanno i requisiti? Cioè a questo punto forse non ha torto chi dice. Può essere una buona occasione per fare una riforma, magari brutale, ma dei campionati, sì, per tagliare il numero delle squadre. Posto che non si può pensare di fare la Serie A soltanto con le tre squadre che hanno i requisiti, no, ad oggi per no, farlo, no, evidentemente le norme in qualche modo dovranno delle squadre di Lega Pro, e sono tante che hanno un sacco di problemi. In Serie B tu sai il casino che noi c'è. Da qui a un anno dobbiamo tagliare, probabilmente dimezzare le squadre di Lega Pro, o comunque fare un taglio importante. Se c'è l'occasione si cominci subito. 800240024 è il numero verde. Riusciamo a sentire Giorgio De Luca, nostro autore, Michele Previato qui in regia da Cibus Italia Expo. Riusciamo a sentire prima del traffico Boban che parla del mercato dell'Inter e della Juventus, così da introdurre un po' i discorsi successivi? Secondo me l'Inter si è mossa molto bene, perché come ho detto prima loro hanno preso due giocatori che danno la struttura, quindi due giocatori indiscutibilmente che tu puoi star tranquillo che hanno un peso specifico che cambia la tua squadra, che le dà certezza, che le dà sicurezza. Quindi la Juve si è mossa anche secondo me bene, ma ha perso Tevez, che non sarà facile da sopperire a un giocatore così, perché uno che si inventava da solo calcio, uno, secondo me non è fuori classe Tevez, però in quella Juve riusciva comunque a trovare spazi, a interpretare il gioco alla perfezione, e ha dato tanto. Sì, a parto di togliere il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Tutti convocati. Convocati. Tutti convocati da Expo 800240024. Diamo qualche notizia sul Milan? Adesso diamo qualche notizia sul Milan. Perché oggi è la grande giornata del Milan. Verifichiamo la sostenibilità del telefono di Pierluigi Pardo. Pier? Non è insostenibile. Non è così. Ecosostenibile. Aldo Serena, buongiorno. Sostenibilissimo il telefono di Aldo Serena. Dammi qualche notizia sul mercato del Milan e poi parliamo, facciamo due chiacchiere con Aldo Serena. Allora, la prima notizia sul mercato del Milan è che un quarto d'ora fa è uscito il comunicato ufficiale. Il Milan ha confermato di aver raggiunto il raccordo con il Siviglia per Bacca, che sta facendo le visite mediche, quindi le firme arriveranno dopo. Poi Galliani ha appena finito di pranzare da Giannino, che ha riaperto alla grande i battenti, con due procuratori. Uno è Gilmar Veloz, procuratore di Luis Adriano, e l'altro è Kia Yorapchan, procuratore di Alex. Uno deve arrivare e l'altro deve andare via. Su Luis Adriano c'è il problema che lo Shakhtar vorrebbe qualche soldo, anche se in realtà Luis Adriano il 31 dicembre va in scadenza di contratto. E quindi c'è da discutere. È andato via Rami, quando sarà ufficiale rinnoverà Mexès, perché così voleva Berlusconi settimana scorsa, quando qualcuno, non io, l'ha detto, tutti hanno riso. E io ho continuato. Invece Berlusconi ammira Mexès perché lo ritiene un difensore, un giocatore con le palle. Vabbè. Messo tra virgolette. Messo tra virgolette. E poi ti dico che Galliani, a proposito di Ibra, quando i giornalisti fuori da Giannino gli hanno chiesto, ma arriva Ibra, ha detto saluti. Allora, secondo da me, io sono convinto che alla fine della storia Ibra arriverà, e chiedo ad Aldo Serena, perché questo è un grande dibattito, oltre che agli ascoltatori, 800240024, Aldo, Ibra sì o Ibra no? Il valore del giocatore naturalmente non si discute. Il problema è quasi di immagine di un Milan che sta rinascendo. Sì, è vero, un Milan che si sta rifondando, ecco, va a prendere un giocatore che è già stato in maglia rossonera, che è attualmente è fra i migliori giocatori al mondo nonostante i 34 anni e che probabilmente potrebbe far benissimo ancora nel campionato italiano sotto il profilo dei gol, ecco, sotto il profilo della gestione di questo grande campione per il suo carattere un po' così bizzarro. C'è un punto di domanda, anche perché la squadra ci sono vari giocatori nuovi, dico da Bertolacci a Bacca, che appunto è stato annunciato. Ti piace? Ecco, su quelli io penso che un riferimento come Ibra potrebbe anche andare bene. Giocatori che hanno giocato lo scorso anno e anche hanno fatto gol come Menez, ecco, già tocca un po' il naso, perché io credo che non vedo una coppia Menez-Ibrahimovic. Menez, dopo 2-3 volte che fa le sue azioni senza dar palla, ho l'impressione che andrà a scontrarsi immediatamente con lo svedese. Sì, sì, io sono d'accordo, ma credo che Menez non rientri neanche nei piani del Milan. Pierluigi Pardo e so anche Giovanni Capuano invece sono dei sostenitori del ritorno di Ibrahimovic. Tutta la vita, e aggiungo che secondo me non servirebbe solo al Milan, servirebbe alla Roma, servirebbe al Napoli. Cioè, Ibra è uno straordinario, secondo me, un campione straordinario, sì, sì, che nel campione italiano fa la differenza. E tutte le valutazioni sull'immagine, la ricostruzione, certo è un investimento a brevissimo termine, questo non ci sono dubbi. Ma il problema è quello, Pier, il Milan ne ha fatti troppi. No, ma il Milan ne ha fatti troppi, ne ha fatti troppe di queste cose. Serve più alla Roma. Anche secondo me, cioè se la Roma prende Ibrahimovic, fa un grandissimo colpo. È chiaro che dal punto di vista del monte ingaggi è una cosa insostenibile, nel senso che potrebbe creare un effetto a catena di un certo tipo, ma insomma a Roma sono anni che, ormai sono 2 anni consecutivi, la Roma arriva seconda, a Napoli sono anni che si arriva lì a un passo e serve provarci. L'uovo oggi più che la gallina domani. Ma infatti io discuto una questione di immagine del Milan, perché il Milan troppe volte ha fatto operazioni di questo tipo. Se vogliamo dare una nuova immagine, un nuovo corso, allora davvero servono operazioni differenti, è semplicemente questo che dico. Sì, Ibra è un acceleratore, però sì, secondo me va anche considerato questo, cioè se il Milan può fare l'operazione a certe cifre, io credo che quelle cifre non valgano per altri. Cioè, c'è una questione anche di rapporti tra Galliani, Minoraiola, il Milan e Minoraiola, il Milan e Ibrahimovic. E quindi io non so se esiste la possibilità che lo faccia il Milan, ma credo che alle stesse condizioni non esista la possibilità per nessun altro, soprattutto in Italia. Su Ibra noi l'avevamo detto, se ti ricordi, una decina di giorni fa, che il fatto che il Paris Saint Germain fosse sotto sanzione era un problema per il Milan, perché non si poteva far partire, certo, Ibra per poco e poi non poter spendere i soldi per prendere ad esempio la Lacazette del Lione. Ecco, da ieri questo ostacolo è stato rimosso, cioè il Paris Saint Germain può tornare a fare mercato come vuole, e questo significa che se il Milan si mette a posto ed è a posto con Bacca e magari Luis Adriano, può anche attendere poi il mese di agosto per chiudere un'operazione, io non dico nelle ultime 72 ore, ma comunque non immediata per Ibrahimovic. Un'altra cosa volevo chiedere ad Aldo Serena: Mandzukic, Morata, Dybala, funziona la chimica per la Juventus? Ma non credo giocheranno tutti e tre insieme. Io penso che la Juventus ora sia alla ricerca di un trequartista, di un giocatore che abbia quella capacità di inventare, ma anche di essere bravo nella fase di non possesso. Tipo Jovetic? Sì, ce ne sono vari, insomma. Io dico anche Oscar Del Chessi potrebbe essere il giocatore ideale, ma ecco, non so se per l'aspetto economico, ecco, sia possibile. Per quanto riguarda i tre che hai detto, non penso giocheranno insieme, anche perché io penso che Dybala sarà titolare assoluto per la sua capacità tecnica, per la sua gioventù, per la sua freschezza, per la sua abilità, e Mandzukic se la giocherà con Morata. La pensi anche tu così, Pardo? Cioè uno dei due tra Mandzukic e Morata e l'altro è Dybala? Io credo di sì. Luigi, non ci senti? Eccomi, scusa, non ho sentito la domanda, ma ci sono. No, dicevo, come dice Aldo Serena, uno dei due, tra Mandzukic e Morata, e l'altro è Dybala. Io credo che questa sarà la soluzione di Allegri. Sì, no, io Aldo l'ho sentito prima della galleria e sono d'accordo che Dybala, secondo me, non è un trequartista, è la prima alternativa agli attaccanti. Oscar è perfetto. Dybala non è un trequartista, eh. A Palermo non ha giocato da trequartista, non è esploso da trequartista. Può essere vice Tevez. Io per Dybala immagino, e chiedo ad Aldo se può essere anche questa una traiettoria, nella Juve un ingresso modello Morata. Cioè, noi per qualche mese Morata l'abbiamo visto col contagocce in determinate situazioni, ha imparato, sì, si però, è ambientato, non è stato bruciato. Mandzukic e Morata insieme non è stato bruciato. E poi io mi immagino per Dybala una cosa simile, anche perché, sai, è impegnativo arrivare con l'etichetta di mister 40 milioni e rischi di bruciarti in fretta. Io credo che a Torino abbiano anche la possibilità di aspettarlo da questo punto di vista. Sono bravi ad aiutare sicuramente i giovani, hanno dimostrato lo scorso anno con Morata, anche se per la verità io Morata l'avrei lanciato subito, perché è un giocatore con quelle capacità e con quella dinamicità, no? Con quell'altezza, quella forza fisica, ma è un giocatore, un attaccante completo. Su Dybala, ecco, mi dispiace, si è interrotto e si è interrotta quella coppia con Vasquez, e Vasquez è un potenziale trequartista anche. Io auspicavo per la Juventus l'acquisto di entrambi, perché avevano un'immediatezza nelle conclusioni, nelle giocate, nella volontà proprio di trovarsi e di trovare la rapidità nei movimenti, che era naturalissima. Mi è dispiaciuto che si sia interrotta questa coppia, e perché così Vasquez l'avrei visto bene alla Juventus in quel contesto, appunto, di ricerca del trequartista che Allegri sta facendo. Aldo, ti chiedo ancora una cosa prima di salutarti. La questione Conte, tu come la vedi? La vedo un po' intricata, perché io penso che adesso il calcio italiano debba fare chiarezza e debba non avere più dubbi nell'andare avanti e cercare di trovare una chiarezza che è auspicabile per tutto il movimento. Quindi bisogna essere inflessibili sulle cose, e anche se dovesse essere il CT, si deve andare avanti e non guardare in faccia nessuno. Sì, però Aldo, cioè, Conte ha già pagato dal punto di vista sportivo, sì, per quella vicenda lì. La Federcalcio lo sapeva, tutti noi sapevamo che lui non aveva ancora chiuso i conti con la giustizia ordinaria, però con quella sportiva sì. E altrimenti cosa facciamo? Vale per tutti quelli che hanno avuto un qualunque problema con la giustizia sportiva, anche una volta chiuso devono essere in qualche modo ineleggibili per alcuni ruoli? O è una questione che riguarda solo Conte, solo questo episodio? Non lo so, perché a me viene questo dubbio, visto che ne stiamo discutendo. Bisogna partire da un punto, perché se guardiamo sempre al passato non risolviamo mai nulla. Io penso che ci sia un cancro abbastanza profondo in Serie B, sicuramente lo è stato ed è stato dimostrato. Quindi bisogna, a questo punto, anche per prevenzione, andare in maniera decisa su ogni cosa. Grazie Aldo. Posso dire, sono d'accordissimo dal punto di vista, diciamo, culturale, sul fatto che si debba creare questo discorso qui. Però io penso veramente Conte ha pagato, giusto o sbagliato che sia, tanto o poco, atteggiamento agghiacciante dal punto di vista della giustizia sportiva, Conte ha pagato, e quindi è dal punto di vista prettamente sportivo. E poi questa non è una cosa nuova, è una cosa già scontata, certo, quando è stato preso come allenatore, no? E quindi secondo me deve andare avanti senza se e senza ma. L'unica incognita è di carattere pratico. È ovvio che se dovessero esserci le udienze o dovesse essere sotto pressione in un momento importante per la nazionale, beh, insomma, quello potrebbe essere una complicazione, ma ripeto, pratica però anche emotiva. Cioè, secondo me, in questo momento l'unico che può decidere del futuro di Conte è Antonio Conte. La Federcalcio va benissimo a sostenerlo dicendo il rinvio a giudizio è un atto giuridico che non è una sentenza di condanna, quindi Conte faccia la sua strada, per noi è il commissario tecnico. L'unico che può decidere se è in grado di andare avanti a fare CT della nazionale, se ha le condizioni anche emotive per fare CT della nazionale, è Antonio Conte. Non c'è un'altra persona che può decidere questo. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme a 800 24 00 24, numero verde. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati. E poi proveremo a recuperare Pardo sulla via di Viterbo. Adesso non è possibile, Riccardo da Pordenone, Gianni d'Asco di Piceno, 800 24 00 24. Tra poco parliamo anche di mercato, ragazzi, perché ci sono tante cose da dire. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Niente, io voglio parlare di Milan, e al di là del dilemma di Ibra sì o Ibra no, Ibra sì o Ibra no, io direi che secondo me sarebbe più opportuno cercare qualcuno per la difesa, perché questo, quest'anno abbiamo preso 50 questo è diventato quasi un luogo comune, ma da molti anni, il Milan ha sempre fondato i suoi successi soprattutto sulla difesa. Adesso lasciamo stare i mostri sacri di Baresi, Maldini, Costa Curta, che insomma prima che di riuscire ad arrivare a questi livelli spero magari facciano pochi anni, però insomma non abbiamo intanto le notizie sono che Rami è stato ceduto e Mexes va verso il rinnovo, come mi conferma il dottor Capuano, per espressa volontà presidenziale, quindi sulla volontà presidenziale non si discute, quindi la vedo un po' scura. Io credo che ci voglia qualcuno magari di giovane da far crescere, però che insomma dia più solidità dietro, anche perché tutti i successi, almeno il campionato italiano, si basano soprattutto su difese forti, chi ha sempre preso pochi gol alla fine ha portato a casa i campionati e insomma le qualificazioni di Champions, eccetera. Sì, Riccardo, sì. Però mi sembra che il Milan non stiamo facendo un ragionamento per vincere il campionato, cioè il Milan debba fare un salto dall'undicesimo posto, quant'è arrivato quest'anno Carlo? Credo undicesimo, sì. Cioè dall'undicesimo posto al quarto, quinto, secondo me è il terzo, perché poi tutti ruotano intorno a questa grande scommessa di rientrare in Champions League. Al mucchio dietro la Juventus. E allora insomma a me sorprendono anche un po' questi tifosi del Milan che davanti al Ibra sì, Ibra no, dicono, e però in difesa bisognerebbe fare l'investimento sul difensore centrale. Ibrahimovic è un giocatore che sposta 15 punti, poi magari fra un anno, due anni si può ragionare sul resto, ma il Milan ha bisogno, così come tante altre squadre, di risposte immediate. Sì, ho capito, però una risposta immediata con Mexes e Paletta non so se riesce a darla, non so se c'è Pierluigi. Sì, io sono da sempre, bisogna alzare il cursore e aprirsi. E quindi no, io penso questo, che sicuramente ha ragione l'ascoltatore, dal punto di vista difensivo la squadra va migliorata, non ci sono dubbi, però sono d'accordo con Capuano, cioè Ibra è un acceleratore, Ibra semplifica in maniera incredibile, è la soluzione più rapida, più presa portée per migliorare che ha a disposizione il Milan. Su Mexes è chiaro che ha avuto tanti alti e bassi in carriera, tante oscillazioni, capisco che non piaccia ai tifosi, sempre in segno di ridimensionamento, però secondo me in rosa ci può stare, è un giocatore che nei momenti in cui, nei rari in cui è stato mentalmente pronto, è un giocatore che non ha fatto male, poi ha avuto troppi passi sicuramente. La coppia centrale titolare del Milan quale può essere a questo punto? Rami ceduto? Per esempio Godin ha dichiarato che il Milan gli sembra un annuncio, no, stamattina, e quindi che non ci andrà, però questo vuol dire in qualche modo che il Milan ci ha provato, altrimenti non ci sarebbe stata questa dichiarazione. Io penso che il Milan stia lavorando anche lì per crescere, per migliorare. Allora sentiamo invece cosa ha detto Boban, per rimanere su questo argomento, su Bacca. Per Bacca, conoscendolo, direi che sono spesi bene, sono veramente tanti, ma è un giocatore molto importante, un giocatore veramente che capisce come si deve muovere, tanto concreto, ha anche esperienza nei migliori anni, quindi a me è sempre piaciuto, adesso bisogna vedere poi sempre quando si cambiano anche le dimensioni, perché con tutto rispetto a Siviglia e tutto quello che ha vinto, il Milan è un'altra cosa. Ma ecco, ha tutte le potenzialità, se gioca come sa giocare dovrebbe veramente cambiare la dimensione al Milan. Quindi promosso da Boban. Gianni Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. A lei, dica. Io volevo parlare anch'io del mercato del Milan. Per quanto riguarda Ibrahimovic, massimo, cioè Ibrahimovic tutta la vita. Io per me ho un debole per Ibrahimovic. Invece io... a me piacerebbe vedere l'interessamento del Milan anche per un giocatore come Haaland, che credo che sia uno dei migliori talenti che ha il nostro campionato. Non credo che sia in agenda per il Milan Haaland. credo che sia in agenda per il Napoli. Esatto. D'accordissimo, Allan è un grande giocatore, non ci sono più dubbi, nel senso che ha avuto una continuità di rendimento, qualità più quantità, un dinamismo in mezzo al campo unito alla buona tecnica, che anni che fa capire che il giocatore c'è, quindi proprio non, secondo me non ci sono dubbi su quello che può dare. Ho visto che il Napoli ha anche l'opzione Guarin è un giocatore forse più colpi dal punto di vista realizzativo, con qualche soluzione balistica in più, ma dal punto di vista della continuità per me non molto più discontinuo, cioè è meglio Allan, esatto. Molto più discontinuo. Sentiamo chi è in agenda. Luca Marchetti da Sky. Luca, ciao, buon pomeriggio a tutti. Stiamo parlando di agende. Allan e Darmian sull'agenda del Napoli. Ieri c'è stato un pur parler con Anna Trieste, diceva stanno ipotecando il maschio Angioino per avere Darmian, stiamo facendo una colletta, stiamo raccogliendo le risorse, vogliamo Darmian, ma Cairo non lo molla. Anche Versailles vogliono, tutti e due. Sì, tutti e due. Uno prenderanno. Ma secondo me rischiano di prenderle tutti e due perché vogliono rifare le fasce a Napoli, evidentemente queste sono anche le necessità di Sarri rispetto a un sistema di gioco diverso rispetto a quello che utilizzava Benitez. Per avere Darmian sì, un po' di maschio Angioino forse ci vorrà, visto che il Cairo chiede 20 milioni di euro, che non sono pochi, la trattativa era iniziata di vale. Con i giocatori Li vale perché i prezzi sono questi ormai. Appunto. Guarda, l'unico prezzo folle secondo me è quello di Mertens, quando ho sentito 14 milioni sono messo a ridere, ma Darmian vale 20 milioni, perché Darmian vale meno di Bertolacci. Tanto per essere mi piace molto, però voglio dire, se Mina spende 20 milioni per Bertolacci, perché Cairo non dovrebbe chiedere 20 milioni per Darmian? Infatti fa benissimo. Infatti li chiede, secondo me trova anche qualcuno che gli dà. Alla fine dice anche altro, Luca Cairo, dice anche altro, perché se dovessimo seguire le parole di Cairo, il mercato in uscita del Toro, almeno per quanto riguarda i grandi nomi, si è chiuso 38 ore e 45 minuti fa, perché lui aveva detto entro il 30 giugno chi deve andare va, altrimenti resta. Sì, sì, ma lui è stato molto lineare, comunque nel dire non voglio vendere nessuno, se poi qualcuno vuole andare via o mi offrono delle cifre che io chiedo, allora ne possiamo parlare. Senti Luca, ma mi spieghi adesso la situazione del Paris Saint-Germain, che mi sembra la più interessante per molte implicazioni? Che di fatto il fair play finanziario non c'è, è saltato il tappo dei soldi entro i quali doveva stare come disavanzo il Paris Saint-Germain, perché c'è questa sentenza che di fatto ha rivoluzionato un po' quelle che sono che erano le necessità della UEFA, e quindi non solo il Paris Saint-Germain in realtà, anche i club italiani che hanno avuto delle sanzioni non erano così forti come quelle del Paris. Il Paris aveva dei limiti molto più precisi rispetto a Roma e Inter, però diciamo che la questione del fair play finanziario in questo momento, poi sai che tutto lasciato alla magistratura ordinaria può cambiare anche al prossimo grado di giudizio, ma è tutto saltato. Quindi via libera Ibrahimovic, anche se noi siamo rimasti beffati, bisogna raccontare perché? Che in questo momento i club italiani, segnatamente Inter e Roma, sono rimasti un po' beffati perché sono rimasti fuori dalla riforma, quella che ha raccontato credo Belinazzo, e quindi non potranno godere di quelle agevolazioni per nuovi investitori, anche se dovessero arrivare anche per delle minoranze, perché hanno subito sanzioni negli ultimi 3 anni. E in più, siccome a differenza del Paris Saint-Germain hanno infranto i paletti ma non hanno aggirato le norme spendendo vagonate di milioni e quindi mettendo comunque in moto un circolo virtuoso come ha fatto il Paris Saint-Germain, oggi continuano a essere sotto sanzione. Quindi il paradosso è questo: il Paris Saint-Germain, che ha fatto le sponsorizzazioni da 200 milioni di euro e alla fine però ha quadruplicato il fatturato, oggi può tornare a fare mercato. La Roma ad esempio, che è fuori per molto meno, le sanzioni se le tiene. Sì. Economiche, però sono sanzioni a livello di rosa, ma sono anche peggio, Luca. Guarda che la multa era l'aspetto secondario di tutta quella sanzione. Cioè l'anno scorso il Paris Saint-Germain l'avrebbe fatta l'offerta per Pogba o no, se non fosse stato sotto sanzione col limite al mercato? Secondo me la risposta è sì, leggendo i giornali francesi anche l'anno scorso, eppure non l'hanno potuta fare. Quest'anno magari adesso ci potrebbero pensare. Ci fermiamo un attimo, sì, per il traffico. Per fare spazio a Pogba lo trovi spazio a Pogba. Se non puoi spenderli i soldi perché non te li fanno spendere, è diverso. Pogba non lo puoi proprio prendere. Cioè io per prendere Pogba metto a buttammare qualcuno. Se invece i soldi non li posso spendere, no, non posso proprio farlo. Traffico un attimo, poi torniamo. Pardo è praticamente la risposta sportiva apparente. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo con Luca Marchetti, Pierluigi Pardo al telefono, Giovanni Capuano qui con me. Stiamo parlando di mercato e c'è un nome che balla tra l'Inter e la Juventus. Voglio capire com'è la storia da Luca, e si chiama Jovetic. Anche Cuadrado balla fra l'Inter e la Juventus. Anche Cuadrado? Sì. Sì. Uh-huh. Quindi? Quindi bisognerebbe fare gli psicologi, secondo me. Ah. Per riuscire a entrare nella testa dei giocatori, perché a questo punto secondo me saranno decisive le loro volontà. Le due società, mi sembra evidente, il Manchester City da diverso tempo, il Chelsea da poco, hanno aperto una cessione di questi due giocatori. Per Jovetic è più interessante andare a fare il comprimario alla Juventus, il titolare all'Inter, considerando che viene da un anno in cui sicuramente il titolare non l'ha fatto, e lo stesso dicasi per Cuadrado. Alla Juventus la garanzia di essere titolare non ce l'hai, all'Inter in questo momento sì, perché stanno completamente rifacendo la squadra, ma la Juventus è la Juventus, ha vinto il campionato negli ultimi 4 anni consecutivi, la finalista di Champions. L'Inter sta ricostruendo un progetto e non è sicuro che questo progetto venga sempre con il buco, quindi credo che le potenzialità economiche di ingaggio per le due squadre siano simili. Per questo che ti dico che dipende dai giocatori, cioè dalla loro volontà. Praticamente le telefonate di Mancini. Pardo, fai Babbo Natale fuori stagione. Dovessi darne uno all'Inter e uno alla Juventus, come li distribuiresti? Guarda, tatticamente Cuadrado mi sembra poco da Juve. Nel senso che mi sembra la Juve abbia anche a me un artista puro. A me sembra che la Juve cerchi Oscar, un giocatore così, per caratteristiche, sono un trequartista, un grande centrocampista offensivo. Cuadrado è un esterno molto bravo, talentuoso, che salta il Non può essere Jovetic questo giocatore? Sì, può essere Jovetic, per me è meglio Oscar, cioè vai nettamente sicuro. Jovetic è un giocatore, ragazzi, di 20 anni, veramente grandi lampi, ma anche grandi interessenze. Va detto, non è che anche infortuni. Anche infortuni, perché lui sono una parte del gioco, una coppa sua, però voglio dire, il dato politico, il dato riassuntivo di questo momento. Ti sento più gallery per Pierluigi Pardo. A Luca Marchetti voglio chiedere invece ancora una cosa, cioè di risolvermi un ultimo grande mistero: il mercato indecifrabile della Roma. Finora non te ne ho risolto neanche uno, non ti risolvo neanche questo. Voglio dire, no, allora Destro è ancora lì, Dumbia sì, è ancora lì, e Gervinho è ancora lì. E Destro e Gervinho, tra l'altro, non li trovavano neanche più sparpagliati per il mondo. Poi Gervinho ha detto che non è vero, che aveva chiesto a Spiaggia Privata l'elicottero, eccetera eccetera. Quindi adesso vediamo se torna a Roma per il raduno. Morale, il mercato da Roma mi sembra qualcosa di molto liquido, come piace dire a Pardo. Molto liquido, molto. Qualcosa di molto liquido che piace anche a Sabatini, secondo me. Perché? Perché lui ci ha abituato in questi anni in cui ha lavorato a Roma, ma non soltanto, ad essere un direttore sportivo che tocca tutto e poi va a chiudere quello che riesce a chiudere, ma soltanto alla fine, anche per quanto riguarda le cessioni. È un mercato che starci dietro diventi matto, nel vero senso della parola. Sì, sì. Secondo me è una grandissima qualità questa che ha Sabatini, alle volte è un grande boomerang. Io mi ricordo, e me lo ricorderò per sempre, probabilmente ve lo ricorderete anche voi, il famoso mercato della Lazio quando Sabatini era direttore sportivo, che in tutto il mercato riuscì a prendere soltanto un difensore, Artipoli. Poi chiuse Vignaroli alla fine del mercato insieme alla sua lettera di dimissioni. È anche questo il mercato di Walter Sabatini. alle volte le cose non riescono bene, su destro per esempio che non trova l'accordo con il Monaco, ma nel frattempo l'ha trovato col West Ham, ma si mette di contro la Roma perché il West Ham lo vuole in prestito e invece il Monaco avrebbe fatto una cessione a titolo definitivo. Se Dumbia io non credo che abbia avuto grandissime offerte, ma Cervinho l'offerta ce l'ha avuta e poi comunque sì, a spiaggia privata o meno, elicottero o meno, l'accordo con Al Jazeera non l'ha trovato lui. È chiaro che in questo momento il mercato della Roma è frenato perché tu hai già speso molto. Hai ma è vero che rischia di perdere Romagnoli? Hai scattato Nainggolan. Perderà Romagnoli? Ma secondo me non lo perde, però su Romagnoli ci sono delle attenzioni fortissime del Milan, perché Mihajlovic lo conosce benissimo, e del Napoli. La prima cifra, la prima stima è da 30 milioni di euro. Ecco, prima parlavamo di cifre, no, su Bertolacci, Darmian. Un giocatore del genere, così giovane, può valere quella cifra, se non di più. Cioè io se sono un allenatore come Mihajlovic e devo ricostruire la difesa, prendo un giocatore così, che è giovane, lo conosco, so quanto è bravo, so che potenzialità ha. Però perdere Romagnoli anche dopo aver perso Marquinhos non è una bella, come dire, no, iniezione di fiducia per i tifosi della Roma. Cioè, ti guardi al futuro, ne perdi uno all'anno, guardi al futuro, ne perdi uno all'anno e alla fine i conti cominciano a non tornare più, magari quelli economici, ma quelli, esatto, non per fare il momento focus, ma noi siamo un campionato in cui parametri alla mano in tre si scriverebbero 17 no. Sì. E io sento girare queste cifre meravigliose dove se non spendi 20 per un difensore non sei contento, Romagnoli da 30 in su, che per carità li varrà anche, però stiamo parlando veramente di assegni che l'anno scorso non avremmo nemmeno immaginato di fare neanche in fotocopia come quella squadra di Lega Pro. Ma possiamo andare con giù, ecco il Barletta, possiamo andare con Dombia in giù, sono ipervalutazioni. Luca, grazie, a presto. A voi, ciao ciao, buon pomeriggio. Ciao ciao, ciao. Pierluigi Pardo non lo troviamo più. Lo salutiamo, lo ritroveremo domani alle 2. Giuseppe Milano, buongiorno. Ciao a tutti e grazie ciao. Per l'invitazione. Ciao. 800240024, voglio ricordare, siamo all'Expo Civosa Italia. Venite a trovarci, ripeto, indicazioni geografiche tra il padiglione del Giappone e quello del Monaco, di Monte Carlo, ci trovate qui e abbiamo anche delle magliette da regalarvi. Dica Giuseppe. Niente, no, io volevo parlare a proposito del Milan e del probabile acquisto e la trattativa per Ibrahimovic. Io ritengo che il giocatore chiaramente non si debba dire niente sul e ritengo che però per una squadra che vuole ripartire con un allenatore nuovo, con diversi giovani, che vuole crearsi un nuovo schema di gioco, un nuovo modulo di gioco, secondo me un giocatore come Ibrahimovic rischia di vanificare un po' tutto questo, perché è un giocatore talmente ingombrante dal punto di vista tattico che, cioè, lo schema diventa a palla lunga Ibrahimovic, che tanto qualcosa conviene. Sì, però Milan ha anche la fretta di ottenere dei risultati subito e ha ragione Giovanni, ha ragione Pardo quando dicono che Ibrahimovic è una grande scorciatoia per questo. Poi se ce l'hai ti adatti il modulo e la ricostruzione la fai magari in un altro momento, magari dopo aver conquistato la Champions League. No, ma anche perché il Milan sta vivendo questo paradosso per cui ha speso 50 milioni per Bacca e Bertolacci, sta facendo un mercato importante diverso rispetto all'anno scorso, e però i tifosi sono delusi, sono ancora scottati dal sabato nero, da Jackson Martinez e Kondogbia. E io ho l'impressione, ma mi pare di aver capito che ce l'hanno anche i dirigenti del Milan, che o arriva Ibra, che è quello capace di mettere d'accordo tutti, o questo sarà un mercato che finirà agli archivi come un mercato un po' così, un po' deludente. E il Milan ha bisogno di tante cose, cioè ha bisogno di avere San Siro pieno, ha bisogno di quella scossa emotiva che ad oggi né Bacca, né Bertolacci, né Baselli, tantomeno il rinnovo di Mexes, nessuno di questi è riuscito a dare, e anzi è stato dato in negativo da quel sabato lì, vissuto convinti di aver preso con Kondogbia e Jackson Martinez. Salutiamo per lui, riusciamo a salutare Pierluigi almeno? Sì, io sono qui. Dubbia, sono d'accordo. Al di là della scossa emotiva, per me non è solo emotiva, è anche un discorso tecnico. Poi c'è anche la componente emotiva dell'entusiasmo, per carità, ma ripeto, può anche stare una scelta completamente diversa, nella quale ci sono i giovani che offrono 30 milioni a Roma per Romagnoli, fanno altre cose. Ibra, secondo me, ripeto, servirebbe soprattutto a squadre come Roma e Napoli, che in questi anni sono arrivate a un passo e non hanno mai fatto una fit, fosse anche per un anno. Un anno e mezzo, due anni. Da Roma, quando vinsero Scudetto, comprò Matissuta, che un anno e mezzo dopo, sono d'accordo con te. Dal punto di vista economico fu una follia, dal punto di vista tecnico la Roma ha vinto lo stesso, come certo, vince la 2001, certo. E il Napoli stesso discorso, secondo me. Quindi io li vedo anzi per quelle piazze lì, anche sicuramente per quello che dice Giovanni, che ci sono rapporti preferenziali con lui. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao Pier. GR, poi torniamo. Tutte puttanate. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Si ricomincia. Tutti convocati. Tutti convocati, diretta da Expo Civusa Italia. Venite anche a trovarci se ne avete voglia. Siamo qui ancora domani e poi ci saremo domenica con Giovanni Capuano, che è qui vicino a me, dalle 5 alle 7. Domenica, domani dalle 2 alle 3 e mezza, come sempre. Altrimenti, se non potete venire, chiamateci 800 24 00 24, come Roberto da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Allora, io volevo parlare del mercato del Milan. Cioè, va bene tutto, però no, vedo che non sono accorti, o sono in questione mia, ma i risultati mi danno ragione. Il problema, uno dei grossi problemi del Milan in difesa, sono i due esterni, anche l'attacco, perché non sanno crossare, però non difendono mai sul secondo palo. Quando i gol di testa li prendiamo sempre sul secondo palo, non sanno difendere. I due centrali si trovano sempre in balia. Cosa dice? Ma dico che in parte è storia recente. Dico anche che De Sciglio è un giocatore che a me piaceva moltissimo e che si è un po' perso nelle nebbie degli infortuni e di cali condizioni, come spesso accade ai giovani, no? Hanno questo rendimento in altalena per cui arrivano magari anche velocemente in alto, ma poi hanno un fatale andamento ondivago. È successo a Santon, che sembrava la nuova grande cosa del, come dicono gli americani, next big thing del panorama difensivo italiano, è successo a De Sciglio, poi si è perso, adesso magari si sta ritrovando, però è un andamento normale, insomma. Il Milan, secondo me, ha bisogno dell'intera linea difensiva. Il Milan, io da quello che so, proverà a intervenire al di là del rinnovo di Mexes sulla difesa, però dei quattro ruoli di difesa la priorità è quella di un centrale, e comunque nell'elenco delle cose da fare nell'agenda di Galliani il centrale veniva dopo la prima punta, la seconda punta e uno o due centrocampisti. Quindi strano, è considerata, di solito non è così, almeno, l'ultima delle priorità. Di solito non è così. Secondo me, se tu hai bisogno di vincere subito, e ripeto, non vincere lo scudetto, ma vincere quelle partite che ti facciano fare 15-20 punti, si può anche partire dall'attacco. A Milan è sempre partito dall'attacco, in ogni sua campagna acquisti, praticamente da che c'è Berlusconi. Dario Gorizia, buongiorno. Sì, buongiorno, mi avete quasi, grazie per la convocazione, mi avete risposto. Grazie, No, perché io so che lei voleva parlare di Ashley Cole, che era stata presa a cazzotti dalla Playmate. Mi dica la verità. L'ha letta quella lì? No, non l'ho letta. Poi sai, io sono un tifoso del Milan. Sì, ma immagino. Posso raccontargliela rapidamente? No, perché era di ieri. Cioè, Ashley Cole è stato fidanzato con una playmate, no? Poi si sono lasciati in malo modo. L'altro giorno è andato in un locale e ha incontrato la sorella gemella di questa playmate, di questa modella. L'ha scambiata per la sua ex fidanzata, hanno cominciato a battibeccare e questa gli ha spaccato la faccia. Però mica male l'inglese della Roma, cercare due uguali, ma no, basta una volta. Che meraviglia, che bel mondo. Beato, grazie, interessante sta qua. Niente, volevo solo chiedervi una cosa. Se vuole. Dica. Volevo solo chiedervi una cosa. Allora, il Milan deve essere rifondato. Secondo me, io sono un vecchio tifoso del Milan, Inter Milan, milanesi sempre, comunque mai Juventus duro. Anche Milan... se adesso la Juventus è un'altra pianeta, no? Però chiedo una sola domanda. Dovendo rifondare praticamente il Milan, e secondo me si comincia dalla difesa, centrocampo e l'attacco, in qualche maniera qualcuno che la butta dentro prima o dopo lo trovi. Ma dico, Darmian mi sembra un ottimo elemento, ma il Milan forse starà lavorando sto traccia, non dico di no, ma non si fa nessuna, cioè per me, anche se era, mi sembra che sia venuto su sia di scuola Milan lui. Sì. Dico, esatto, io corretto. Si possono spendere 20 milioni tutti i giorni. Cioè, Matteo Darmian costa tanto, è un giocatore a cui stanno pensando e hanno pensato tante squadre, anche l'Inter ci ha pensato, ad esempio, ma anche l'Inter i suoi 20, 30, 40 milioni li ha già spesi e probabilmente li spenderà ancora, perché poi ci sono priorità diverse. Abate è pur sempre un esterno nel giro della nazionale, non è un giocatore. Cioè non è che il Milan lì non ha nessuno, aveva Abate, aveva la possibilità di rinnovarlo, non l'ha mandato a scadenza e l'ha rinnovato. Io trovo anche ragionevole che si possa pensare prima a rinforzare altri reparti. Mi preoccupava di più l'idea di un Milan che partisse dall'attacco e si fermasse lì, e invece mi sembra di aver capito che anche a metà campo qualche pedina in maniera intelligente, qualche investimento venga fatto, e quindi la difesa ci si penserà dopo, magari ci si penserà l'anno prossimo, cioè Roma non l'hanno costruita in pochi giorni, e io credo che il Milan non sarà rifondato soltanto in un'estate, cioè, mi sembra tra un anno dove sei, mi sembra che il dato oggettivo è che il vento al Milan è cambiato, e quindi così come ci sono i soldi quest'anno è presumibile che ci sia un progetto che guarda un po' oltre. Sai come dice quel proverbio, chi vuole essere lieto sia del domani non c'è certezza. Ciao Paolo Savoldelli, che piacere. Buongiorno Paolo. A tutti. Ciao, sì. Come stai? Bene, dai, bene, bene. Bene, come lo vedi il Milan? Dai, il Milan deve crescere, deve crescere. Senti Paolo, non è nei tre periodi migliori sicuramente. No, forse tra i peggiori. No, esatto, mi ha fatto... No, abbiamo chiamato Paolo Savoldelli, oltre che per parlare di Tour de France, perché mi ha fatto molto divertire il fatto che uno dei corridori più spericolati del mondo, uno di quelli che sono stati i più forti discesisti del mondo, adesso è testimonial di una campagna bellissima con Bike Channel per la sicurezza di chi pedala. Cioè la sicurezza di chi pedala per il più forte discesista del mondo, del Falco, mi sembra meraviglioso questo. Sì, fa un po' sorridere in effetti, ma alla fine io ero uno forse dei più spericolati, ma per fortuna ero anche uno dei più abili, quindi questo mi permettevano di avere pochi problemi. Comunque vabbè, questa è una campagna voluta fortemente dal canale, perché succedono tanti incidenti sulla strada, ci siamo resi conto che potrebbero essere evitati tanti di questi incidenti seguendo delle regole basilari. La prima ovviamente è di mettere il casco, ma la segnalazione diciamo della bicicletta con delle luci e tante altre piccole cose. Abbiamo stilato un decalogo, lo stiamo preparando, e praticamente diciamo che è una sorta di educazione per cercare di prevenire tanti incidenti che purtroppo accadono e potrebbero essere evitati. Senti, ma la sicurezza in discesa? Tirare i freni? Ma diciamo che prima di tutto bisogna andare per quello che si sente sicuri e mai cercare di emulare altri o di fare quello che fanno altri. E poi io ricordo sempre che io potevo essere anche il più forte in discesa, ma è capitato di cadere anche a me una volta per assurdo a 100 metri dal cancello di casa mia, facendo una curva che ho fatto milioni di volte, prendendo un sassolino sotto la ruota davanti. Perciò non conta quando sei al limite o quando commetti un piccolo errore, un po' di sfortuna, puoi essere bravo finché vuoi, ma fai alla svelta a farti male. La prudenza comunque è una cosa sempre da tenere in considerazione. Questo è sicuro, Paolino. Senti, fammi una cornice del Tour de France che comincia sabato. Ma è uno dei Tour de France più duri di questi ultimi anni, pochissimi chilometri a cronometro, si inizierà con un cronometro sabato di circa 13 chilometri, un cronometro a squadre, tante montagne e tanti arrivi in salita. un Tour de France diabolico, forse perché al terzo giorno arrivano sul muro di Huy, che è una salita in Belgio dove si corre la freccia vallone, strade sì, molto strette dove ci sarà una guerra incredibile per prendere le posizioni, e da ex corridore dico che questa veramente sarà una tappa importantissima e difficilissima, bisognerà stare attentissima alle cadute perché la tensione sarà alta, sono talmente in tanti i corridori forti e le squadre che tutti lì davanti non ci stanno, quindi presumo che ne vedremo delle belle. Il giorno successivo un'altra tappa che ripercorre quella dello scorso anno, la quinta dello scorso anno, la quarta di quest'anno, con dei tratti in pavé dopo la spettacolare tappa dell'anno scorso dove Nibali ha ipotecato il Tour de France, quest'anno i francesi l'hanno riproposta e anche questa sarà una giornata calda. C'è da dire che ci saranno poi tante montagne, ma la cosa secondo me sarà un tour spettacolare. Io spero vivamente che non vengano tolti dei protagonisti con delle cadute come è accaduto in questi ultimi anni, perché il livello che c'è quest'anno secondo me non c'è da parecchi anni. Si fa prima a dire chi non c'è di chi c'è, perché certo, ci sono praticamente tutti. Cioè, i fari per quanto riguarda la classifica generale saranno ovviamente Nibali, Froome, Quintana e Contador. Poi ci sono altri corridori, ma c'è un livello estremo e quando il livello è così alto la corsa diventa veramente spettacolare. Sì, certo, d'altra parte ti ricordi, citavi il muro di Huy, ma ti ricordi che l'anno scorso praticamente la tappa decisiva del tour fu la foresta di Arenberg nella prima parte, no? Perché fu quella che diede un indirizzo alla classifica. Magari sarà così anche quest'anno, cioè una prima settimana che già potrebbe dare un indirizzo preciso. Sicuramente, contrariamente a quello che accadeva tanti anni fa dove era la prima cronometro a cambiare tutto, gli organizzatori hanno capito che devono movimentare il tutto per renderlo più interessante. L'anno scorso nella quinta tappa con la che hai citato tu c'era stata anche la pioggia a farla da padrone, con la pioggia il pavé diventa veramente difficile. È stato uno spettacolo per tutti tranne che per i corridori, perché ovviamente farlo in quelle condizioni non è facile. Spero per loro che quest'anno però abbiano il bel tempo. Senti, tu lo commenti? No, io non lo commento perché Bike Channel è il canale per cui lavoro, non detiene i diritti televisivi. Faremo però ne parlerai. Delle cose esatto. Lo produrrà la Rai e poi lo trasmetterà la Rai ed lo Sport sempre sulle frequenze di Sky. Ciao Paolino, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao Paolo Savoldelli. Grande corridore, grande corridore e personaggio divertentissimo. Grandissimo corridore. Divertentissimo, tra l'altro, mi sembra di aver visto anche al Giro che le discese hanno un'importanza sempre maggiore, anche tattica. Certo. Cioè, se è difficile andarsene in salita perché ci sono questi grandi guru della salita che controllano tutto, ci provi in discesa e vedi se ti è sufficiente poi per scappare via. Comunque, mi pare di aver capito che un Giro disegnato abbastanza per il nostro Nibali. Sì, Nibali può essere di nuovo, non dico padrone del tour, però può essere uno di quelli che sta lì fino alla fine, anche se Contador fa impressione. Ma tutte le volte che sento Savoldelli mi viene in mente una delle conferenze stampa più divertenti cui abbia mai assistito, forse la numero uno. A Ortisei, Savoldelli in maglia rosa, che racconta di come è venuto a conoscenza del fatto che la sua moglie e la sua compagna fosse in dolce attesa. Ero fuori, sono tornato a casa perché avevo dimenticato il portafoglio e lei mi ha detto: senti, posso dirti una cosa? E allora poi abbiamo cominciato a discutere del nome e lui aveva detto: ma a me, se fosse un maschio, non dispiacerebbe Mefisto. A che la moglie l'ha rimandato fuori col portafoglio. E ha detto: quando torni a casa stasera ti comunico il nome. Veramente un cabarettista Mefisto. Augusto, provincia di Terni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, non spero di non dire qualcosa che ha detto qualcun altro perché mi ascolto da poco. Non c'è problema, non c'è problema. Non c'è problema. Allora, il mio argomento è il Milan, perché sono un tifoso da fin da ragazzino che si è scontrato su Twitter con Galliani ultimamente, mi dispiace pure, ma la cosa che non capisco. Ma perché Galliani è su Twitter? Pare, ci sta dando una notizia. Qual è il profilo? Lui. Qual è il profilo? Allora, che poi andiamo a controllare. Nome e cognome. Quindi chiocciola Adriano Galliani, così scritto. Vai a vedere. Sì, adesso andiamo a vedere. Dopo, in un certo momento mi ha messo fuori perché forse gliene dicevo di troppe. Però non erano tanto per criticare, quanto per. Adesso controlliamo. La mia domanda è questa, ma vorrei sapere se Mihajlovic ha richiesto Ibrahimovic. Cioè, voglio dire, ma nel Milan c'è un'abitudine da qualche anno a sta parte un po' strana, cioè che i giocatori li compra la dirigenza e non l'allenatore. Ora, un giocatore come Ibrahimovic stava al Milan e ha fatto benissimo, ma dietro c'era un monumento che si chiamava Thiago Silva. Se tu dietro c'hai Mexes, con tutto il rispetto, temo che non sia la stessa cosa, oltre al fatto che è una persona che comincia a essere grandicello e che quindi probabilmente andrebbe ad annullare comunque Sharawi, andrebbe ad annullare Mexes, ad annullare Bacca, se arriverà o non arriverà. Ho questa sensazione, cioè Mihajlovic l'ha chiesto. Cioè, a Milan si comprano i giocatori chiesti dall'allenatore o si comprano nella dirigenza e poi si cacciano gli allenatori perché non riescono a farli giocare? No, io credo che Mihajlovic abbia chiesto Bertolacci, però io credo anche che Mihajlovic, che è uno di grande furbizia, dovessero dargli Ibrahimovic, un modo, una soluzione la troverebbe, perché non credo che Mihajlovic abbia voglia o sia nelle condizioni di dire no a un giocatore come Ibra, anche se su Sinisa io mi tengo una perplessità, perché non si è mai trovato a gestire superstar di questo tipo. Quest'anno anche Conetto ha avuto qualche problema. No, lui ha avuto qualche problema. L'ha fatto aspettare, poi il finale di stagione di Eto'o ha confermato che aveva ragione Mihajlovic. Sì, non discuto. Perché non ha rotto. Cioè, Eto'o si è messo in fila, ha aspettato il suo momento, ha pagato le sue multe e poi nel finale è stato il trascinatore, è stato la vera anima della Sampdoria. Io sto cercando disperatamente di farmi l'immagine di un allenatore che direbbe no a Ibrahimovic. No, non credo esista, anche perché sennò la società potrebbe dire sto tu cercando, non vuoi Ibrahimovic, forse, non vuoi... Io lo prendo, poi vediamo. Forse al Barcellona. Forse al Barcellona, sì, Barcellona Real Madrid. Ma non l'allenatore, il numero 10 del Barcellona potrebbe dire no, Ibra un'altra volta no. Che lui è il vero allenatore del Barcellona. Il numero 10, Leo Messi. Il vero allenatore del Barcellona. Ma no, io pensavo Real Madrid. Io credo solo lì, ma come si fa a dire già di successo, no? Io incredibile, visto, cioè, io davvero mi sorprendo, ma sarò sbagliato io. Da questa cosa dei tifosi del Milan che sono scettici su Ibrahimovic, non sul fatto che arrivi, che è tutto da dimostrare, ma sul fatto che al Milan serva o no Ibrahimovic e sia no eventualmente un affare prenderlo. Cristina, Roma, buongiorno. Ah, buongiorno. Dunque, riguardo alle pressioni emotive che dicevate di Conte, soprattutto su Conte, specie penso in prospettiva degli europei, volevo sapere se lei trova un parallelo con le pressioni emotive su Lippi alla vigilia dei mondiali del 2006 in pieno affare Moggi, fermo restando chiaramente che sono due caratteri diversi. Grazie, sì, la seguo per radio. Grazie a lei, Cristina. Beh, anche due posizioni diverse, perché Lippi non era stato rinviato a giudizio per alcunché, quindi certamente era in una posizione scomoda. Certamente ricordiamo che furono molte le pressioni dell'opinione pubblica perché si dimettesse. Lippi ha ritenuto di andare avanti per la sua strada, però il parallelo può esistere in senso quasi figurato. Da un punto di vista giuridico non esiste, perché Conte è rinviato a giudizio, Lippi era in una posizione giuridica, ripeto, diversa. Stefano Fermo, buongiorno. Buongiorno, mi vorrei riallacciare all'ultimo commento prima della ragazza di Roma. Cioè, io sono, sì, volevo parlare del Milan, cioè, la domanda è stata esattamente posta, chi non vorrebbe Ibrahimovic in una squadra? Cioè, i tifosi del Milan come possono permettersi di contestare o di poter avere dei dubbi sul giocatore, sulla tecnicità del giocatore, poi sul comportamento? Ogni giocatore ha un'espressione e lui è un carattere forte, e nel Milan servono comunque questi elementi per ridare una forza alla struttura. Dire, nessuno, credo che non ci sia un singolo tifoso del Milan che possa mettere in discussione Zlatan Ibrahimovic, né dal punto di vista calcistico, dal punto di vista del carattere, da nessun punto di vista. Sì, lo stanno facendo, però. No, però l'unica cosa è che al Milan ne hanno viste troppe di queste operazioni, probabilmente giocatori in là con gli anni che arrivano a costo zero, a parametro zero, che sono dei ritorni, e quindi dicono basta, proviamo qualcosa di diverso. Io per chiudere saluto Arsenio Weinsteinas, che è presidente del comitato scientifico del CONI, ed è un piacere averlo come ospite. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, senta, a lei volevo chiedere, siamo come lei sa ad Expo, nutrire il pianeta, sì. Come nutriamo gli sportivi? Come si nutrono gli sportivi, soprattutto quelli italiani? Quanta attenzione c'è a questo aspetto? Ma io credo che a livello professionistico e a livello di sportivi di alto livello l'attenzione sia grandissima, perché hanno tutti uno staff di nutrizionisti e di esperti al seguito. A livello medio, a giudicare almeno dall'osservatorio della Federazione Medico Sportiva e l'analisi che stiamo facendo anche per la questione del sovrappeso e obesità, i ragazzi che fanno attività fisica, quindi quelli che si presentano per il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, mediamente hanno un peso nettamente inferiore ai loro coetanei, a significare che la loro alimentazione è abbastanza corretta. Il problema grosso è chi non fa attività fisica e chi non segue le regole di una nutrizione corretta e adeguata. Allora la situazione è disastrosa, basta andare davanti a una scuola e vedere come i bambini di 8, sì. 10, 12 anni sono in abbondante sovrappeso. Sì. Senta, mi tocca una curiosità che è mia personale, ma come si fa ad allenarsi con questa temperatura, con questo caldo? Come si fa a nutrirsi per potersi allenare in queste condizioni, che direi che sono estreme, cosa che faranno tutte le squadre di Serie A? Hanno cominciato già i raduni, e quindi mi domando come sia possibile. Guardi, nei paesi dove fa molto più caldo che da noi ci si allena al mattino molto presto o nel tardo pomeriggio. È chiaro che anche da noi non ha molto senso andare ad allenarsi a mezzogiorno fino alle 4. In ogni caso, se ciò è obbligatorio per motivi che non conosco, non può esserci altro che un'abbondantissima idratazione, perché è sufficiente la perdita di un chilo di peso con il sudore per avere un calo del rendimento assolutamente elevato. Quindi bisogna fare attenzione soprattutto a quello. Io la ringrazio, certo. Ci sentiamo presto per approfondire questi discorsi che sono molto interessanti, soprattutto in epoca di preparazione delle squadre. Ci vediamo domenica, caro Giovanni. Ci vediamo domenica 17. Dalle 17 alle 19, vi ripeto, sempre qui. Cibus Italia, Expo, veniteci a trovare, vi regaliamo le magliette, vi facciamo intervenire, vogliamo la vostra compagnia, eccetera, eccetera. Intanto domani siamo ancora qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, che è il nostro autore, Michele Previato in redazione, cioè credo sia Gianmarco Ferronato in redazione centrale, Davide Cioccia, mi scuso con chi dimentico. Ciao Giovanni Capuano, grazie. Sono tanti, sono tanti. È grande, abbiamo un grande team. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a you.